Ma quali erano i sentimenti di Molly nel sentire quelle ultime parole del padre? Era stata mandata via da casa per una ragione che le era stata tenuta segreta e poi rivelata a questa estranea. Ci sarebbe stata una perfetta confidenza fra loro due e lei sarebbe stata esclusa per sempre? Lei e ciò che la riguardava, anche se come ora non lo sapeva, sarebbero stati oggetto di discussione fra loro due in futuro e lei tenuta all'oscuro. Un'amara fitta di gelosia la faceva sentire scoraggiata e triste. Ora poteva benissimo andare ad Edgecombe o in qualunque altro luogo. Pensare più alla felicità degli altri che alla propria era molto bello, ma non significava forse rinunciare alla propria stessa individualità, estinguendo il calore degli affetti, i desideri sinceri che la rendevano ciò che era. Questa indifferenza era il suo unico conforto, o così sembrava. Vagando per tali labirinti, quasi non percepiva il resto della conversazione. Una terza persona costituiva davvero una folla, laddove c'era una simile confidenza fra i due che facevano la compagnia, dalla quale l'altro era escluso. Era molto infelice e suo padre pareva non accorgersene, era troppo preso dai suoi nuovi programmi e dalla sua nuova futura moglie. Invece egli se ne avvide e gli dispiacque davvero per la sua figliola. Però pensò che vietando a Molly di definire i suoi attuali sentimenti mettendoli in parole, ci sarebbe stata in famiglia una maggiore possibilità di armonia. Era un suo principio generale reprimere le emozioni, evitando di mostrare la simpatia che provava. Però, quando dovette lasciarle, egli prese la mano di Molly e la tenne nella propria, in modo così diverso da come faceva Mrs. Kirkpatrick, e la sua voce si addolcì mentre salutava la sua figliola, aggiungendo le parole molto insolite per lui. Che Dio ti benedica, bimba mia. Molly aveva resistito coraggiosamente per tutto il giorno. Non aveva mostrato rabbia, sdegno, fastidio, rimpianto. Ma quando fu di nuovo sola nella carrozza degli Hamley, scoppiò in un pianto violento e pianse a sazietà fin quando raggiunse il villaggio di Hamley. A quel punto tentò vanamente di ricomporre il viso in un sorriso e di cancellare gli altri segni del suo dolore. Sperava solo di poter correre di sopra in camera sua, senza farsi notare, bagnarsi gli occhi con acqua fredda prima che qualcuno la vedesse. Ma la porta d'ingresso fu sorpresa dallo squire e da Roger, che rientravano da una passeggiatina dopo cena in giardino e che erano generosamente ansiosi di aiutarla a scendere. Roger notò subito lo stato delle cose e dicendo: «Mia madre non vedeva l'ora che arrivaste, vi aspetta da un'ora». La guidò nel salotto. Ma Mrs. Hamley non era lì. Lo squire si era fermato a parlare con il cocchiere di uno dei cavalli. I due giovani erano soli. Roger disse: «Temo che abbiate avuto una giornata faticosa. Vi ho pensata diverse volte, perché so quanto siano strane queste parentele acquisite». «Grazie», fece lei, con le labbra tremanti e sul punto di piangere ancora. «Ho tentato di ricordare ciò che avete detto e di pensare di più agli altri, ma talvolta è così difficile». Lo sapete che è difficile, vero? Sì, confermò lui gravemente. Era gratificato dalla sua semplice confessione di aver tenuto a mente il suo consiglio e tentò di comportarsi di conseguenza. Era un uomo davvero molto giovane ed era onestamente lusingato. Forse questo lo indusse a offrire ancora un suggerimento, questa volta mescolato con la simpatia. Non voleva costringerla a confidarsi, cosa che sapeva sarebbe stato molto facile con una ragazza così candida. Ma desiderava aiutarla, impartendole alcuni dei principi sui quali egli aveva imparato a fare affidamento. «È difficile», proseguì, «ma poco per volta vi renderà più felice». «No!» ribatté lei scuotendo la testa. «Sarebbe molto deprimente uccidere me stessa, per così dire, per vivere solo nel tentativo di fare o di essere ciò che piace agli altri. Non ne vedo il senso. Sarebbe come se non fossi mai vissuta». E per quanto riguarda la felicità di cui parlate, io non sarò mai più felice. C'era un'inconsapevole profondità in quanto aveva detto, tanto che Roger al momento non seppe cosa rispondere. Era più semplice riferirsi all'affermazione di una ragazza di 17 anni che sosteneva che non sarebbe stata mai più felice. Sciocchezze! Forse fra 10 anni, guardandovi indietro, considererete questa prova molto leggera, chi lo sa? Magari è una sciocchezza. Forse tutte le prove che affrontiamo su questa terra ci sembreranno inezie con il tempo. Forse ora lo sono agli occhi degli angeli. Ma noi siamo noi, vedete? E questo è il presente, non è un momento futuro ancora distante. E noi non siamo angeli e non troviamo conforto nel vedere gli scopi per cui accadono le cose. Non aveva mai pronunciato una frase così lunga davanti a lui, e quando l'ebbe detta, sebbene non staccasse gli occhi dai suoi, mentre si trovavano in piedi l'una di fronte all'altro, guardandosi in viso, arrossì leggermente. Non avrebbe saputo dire il perché, né lui seppe spiegarsi perché un improvviso piacere lo colse fissando il volto di lei, semplice ed espressivo. E per un momento egli perse il senso di ciò che la ragazza diceva, assorto nella compassione per la sua triste serietà. Un attimo dopo tornò in sé, se non che è gradevole per un giovane giudizioso e ragionevole di 21-22 anni ritrovarsi nel ruolo di mentore per una fanciulla di 17. Lo so, lo capisco, sì, è con l'adesso che abbiamo a che fare, non perdiamoci nella metafisica. Molly spalancò gli occhi. Aveva parlato di metafisica senza saperlo. Si tende a considerare la massa delle nostre prove che dovranno invece essere affrontate una alla volta gradualmente. Oh, ecco mia madre, ve lo dirà meglio di quanto sappia fare io. E il tête-à-tête si trasformò in un trio. Mrs. Amley si stese, era stata poco bene tutto il giorno. Molly le era mancata, disse, e ora voleva sentire tutte le avventure che le erano capitate alle torri. Molly prese posto su uno sgabello accanto alla testa del sofà e Roger, anche se all'inizio prese in mano un libro e tentò di leggere per non essere d'intralcio, trovò presto nella lettura un pretesto. Era così interessante ascoltare la piccola storia di Molly. Inoltre, se avesse potuto aiutarla in qualche modo quando lei ne avesse avuto bisogno, non era forse il suo dovere informarsi su tutte le circostanze inerenti al caso? Continuarono così per tutto il resto della visita di Molly a Hamley. Mrs. Hamley esprimeva simpatia e le piaceva scendere nei particolari, come dicono i francesi. La sua comprensione era elargita en détail, quella dello squire en gros. L'uomo era molto dispiaciuto per l'evidente dolore dell'ospite e quasi si sentiva in colpa, come se avesse contribuito a causarlo con la menzione che aveva fatto, quando Molly era appena giunta in visita, della possibilità che Mr. Gibson si risposasse. Ripeté alla moglie più di una volta: Parola mia, vorrei tanto non aver detto quelle cose disgraziate la sera prima. Ti ricordi come ha reagito? È stata come una profezia di ciò che è seguito, vero? E da quel giorno è così pallida. Da allora credo che non abbia mai gustato per bene il suo cibo. In futuro devo badare di più a ciò che dico. Non che Gibson non stia facendo in assoluto la cosa migliore possibile, sia per se stesso che per lei. Gliel'ho detto proprio ieri. Però mi dispiace tanto per la ragazzina, vorrei non aver mai detto ciò che ho detto. Ma è stata una specie di profezia, vero? Roger si sforzò di scovare un modo ragionevole e corretto di offrirle conforto, benché anche a lui, a suo modo, dispiaceva per la ragazza, che lottava coraggiosamente per mostrarsi allegra, a dispetto della sofferenza personale per amore di sua madre. Egli credeva che i sommi principi, i nobili precetti, dovessero avere un effetto immediato, ma non è così. C'è sempre un'ignota dose di esperienza e di sentire individuale che oppongono una muta resistenza e la quantità non è calcolabile dagli altri, nonostante i buoni consigli e le alte sequenze. Tuttavia, il legame tra mentore e il suo Telemaco si rafforzava giorno dopo giorno. Roger tentava di distrarla dai suoi penosi pensieri, interessandola a cose che non la riguardavano personalmente e, come è naturale, furono i suoi stessi interessi a trovarsi a portata di mano. Molly sentiva che lui le faceva bene e non sapeva né come né perché, ma dopo una chiacchierata con lui immaginava sempre di aver trovato la chiave per la bontà e per la pace, qualunque cosa accadesse. Capitolo 12. Preparativi di nozze. Nel frattempo, gli affari di cuore della coppia di mezza età procedevano bene a loro modo. Un modo che a loro era congeniale, come se forse sarebbe potuto apparire prosaico e noioso a delle persone più giovani. Lord Camonor era tornato molto allegro per la notizia che aveva sentito da sua moglie alle torri. Anche lui sembrava pensare di aver giocato un ruolo attivo nel sancire quel legame, solo per il fatto di averne parlato. Le sue prime parole sull'argomento a Lady Camonor furono: Ve l'avevo detto. Non ve l'avevo detto che sarebbe stata una cosa positiva e opportuna questa storia tra Gibson e Claire? Non so quando mi sia sentito così compiaciuto. Milady, voi potrete anche disprezzare l'attività del combinare matrimoni, ma io ne sono molto orgoglioso. Dopo questo continuerò a cercare casi adeguati tra la gente di mezza età di mia conoscenza. Non mi metterò in mezzo con i giovani, sono così inclini a essere fantasiosi, ma ho avuto un tale successo in questa circostanza che penso sia un ottimo incoraggiamento a proseguire. Proseguire con cosa? Chiese Lady Kemnor asciutta. Oh, combinare! Non negherete che sia stato io a combinare questa unione. Non credo probabile che voi facciate né bene né male con i vostri piani, replicò lei con freddo buonsenso. Influenzano la mente della gente, mia cara. Sì? Se condivideste con loro le vostre idee, sarebbe senz'altro così. Ma in questo caso voi non avete mai parlato né con Mr. Gibson né con Claire, non è vero? All'improvviso, il ricordo di come Claire si fosse imbattuta nel brano della lettera di Lord Kemnor balerò nella mente di sua moglie, ma ella non ne parlò, lasciando che il marito si dibattesse della questione. No, con loro non ho mai parlato, certo che no. Allora dovreste essere fortemente mesmerico e la vostra volontà dovrebbe aver agito sulla loro, se credete di aver preso parte in qualche modo alla faccenda, continuò la sospettata signora. Non posso davvero dirlo, è inutile guardare indietro a ciò che ho detto o fatto. Ne sono proprio soddisfatto ed abbastanza. E intendo mostrare loro quanto sia compiaciuto. Darò a Claire qualcosa per il suo corredo e avranno una colazione ad Ashcombe Manor House. Lo scriverò presto. Quando avete detto che si sposeranno? Penso farebbero meglio ad aspettare fino a Natale, gliel'ho detto. Sarebbe bello per i bambini andare ad Ashcombe per le nozze e se fa brutto tempo durante le vacanze temo sempre che si annoino alle torri. Sarebbe diverso se facesse una bella gelata e loro potessero andare sulla slitta e a pattinare nel parco. Ma questi ultimi 2 anni è stato così piovoso, poveri cari. E gli altri poveri cari sarebbero contenti di aspettare per far fare una vacanza ai vostri nipoti? Fare una vacanza romana. Pope, non so chi altro, ha scritto un verso di poesia così. Fare una vacanza romana, ripeté, lieto della propria insolita inclinazione alle citazioni. È Byron, e non ha niente a che vedere con la questione. Mi sorprendo che la vostra signoria citi Byron, è un poeta molto immorale. L'ho visto giurare alla Camera dei Lord, si scusò Lord Kemnor. Beh, meno si parli di lui, meglio è, dichiarò Lady Kemnor. Ho detto a Claire che farebbe meglio a non pensare di sposarsi prima di Natale e non starebbe neanche bene che lei lasciasse la scuola in tutta fretta. Ma Claire non aveva intenzione di aspettare fino a Natale e per questa volta tenne il punto contro la volontà della contessa e senza troppe parole o un'aperta opposizione. Un compito più arduo può accantonare il desiderio di Mr. Gibson di far venire Cinzia per le nozze, anche se con la prospettiva di farla tornare a Boulogne immediatamente dopo la cerimonia. All'inizio la donna aveva affermato che sarebbe stato un piano delizioso, splendido, solo che temeva di dover rinunciare alla volontà di avere la figlia al proprio fianco in quel frangente, per via delle spese del viaggio di andata e ritorno. Ma Mr. Gibson, che aveva abitudini così parsimoniose nelle spese personali, aveva un cuore molto generoso. Aveva già dimostrato, lasciando completamente a favore di Cinzia il vitalizio che la futura moglie aveva ricevuto dal defunto Mr. Kirkpatrick e programmando che la giovane entrasse nella sua casa come una figlia, non appena avesse finito la scuola in cui si trovava. Il vitalizio ammontava a circa 30 sterline l'anno. Ora, egli diede a Mrs. Kirkpatrick 3 banconote da 5 sterline sperando che avrebbero dissolto le obiezioni in merito alla partecipazione di Cinzia al matrimonio. Al momento Mrs. Kirkpatrick sentì che ci sarebbero riuscite, colse l'effetto del forte desiderio dell'uomo e immaginò di nutrirlo personalmente. Se la lettera fosse stata scritta e il denaro spedito quello stesso giorno, mentre ancora durava l'aura riflessa dell'affetto, Cinzia sarebbe stata la damigella di sua madre. Ma intervennero centinaia di piccole interruzioni a posporre la stesura di quella lettera e quando spuntò il giorno successivo, l'attaccamento materno era diminuito e il valore legato a quei soldi aumentato. Di denaro ce n'era stato così tanto bisogno. Mrs. Kirkpatrick se l'era guadagnato così duramente nel corso della sua vita, mentre forse la necessaria separazione tra madre e figlia aveva moderato la dose d'amore per la prima che la prima aveva da dare. Così ella si convinse un'altra volta che sarebbe stato poco saggio disturbare gli studi di Cinzia, interrompere il compimento dei suoi doveri appena dopo l'inizio del nuovo semestre. E scrisse una lettera a Madame Lefebvre, così traboccante di questa persuasione, da ricevere una risposta che era quasi un eco delle proprie parole. E quando il suo significato fu comunicato a Mr. Gibson, che non era un gran conoscitore del francese, la cosa definì la questione una volta per tutte, con moderato ma autentico dispiacere del dottore. Le 15 sterline però non furono restituite. In verità, quella somma, come anche una gran parte del centinaio che Lord Camon aveva donato per il corredo, fu necessaria a ripagare i debiti ad Ashcombe. La scuola, infatti, era stata tutto fuorché fiorente da quando Miss Kirkpatrick l'aveva presa in gestione. Era decisamente un punto a suo favore che ella preferisse ripagare i creditori anziché acquistare fronzoli per le nozze. Ma una delle poche regole che Mrs. Kirkpatrick rispettava era quella di prestare attenzione ai pagamenti nei negozi dove si serviva. Era un debole senso del dovere che affiorava. Qualunque altro difetto emergesse dal suo carattere superficiale e frivolo, ella si sentiva sempre a disagio finché non aveva saldato i propri debiti. Però non si fece scrupoli ad appropriarsi del denaro del futuro marito per un uso personale, allorché fu deciso che non venisse impiegato per ciò a cui era stato destinato. I nuovi capi che si comprò erano tutti intesi a essere ostentati e a impressionare le signore di Hollingford. Ella decise che i lini e la biancheria non li avrebbe mai visti nessuno, mentre sapeva che ogni suo abito avrebbe suscitato commenti e avrebbe lasciato un segno in quella piccola città. Di conseguenza il suo corredo di biancheria era alquanto ridotto e non comprendeva quasi niente di nuovo, ma era fatto di materiali di pregio ed era stato accuratamente rammendato dalle sue agili dita per numerose notti, molto dopo che le allieve erano andate a letto. E dentro di sé, mentre cuciva, la donna aveva determinato che in futuro qualcun altro avrebbe fatto quel lavoro per lei. Per la verità, durante quelle ore silenziose, le tornarono alla mente tante piccole circostanze in cui ella si era dovuta sottomettere alla volontà degli altri, esperienze di sopportazione, di dolore che non si sarebbero mai dovute ripetere. La gente è così incline a sperare in un genere di vita diverso da quello a cui è abituata, libera dalla fatica e dalle preoccupazioni. Ricordò che un giorno, proprio durante quell'estate alle Torri, in seguito al fidanzamento con Mr. Gibson, dopo che aveva passato più di un'ora a sistemarsi i capelli in una nuova acconciatura appena copiata dal libro sulla moda di Mrs. Bradley, era scesa pensando di avere l'aspetto migliore del mondo, pronta per il suo innamorato, e Lady Kemnor l'aveva rispedita nella sua stanza, come una bambina piccola, a rimettersi a posto i capelli e a non rendersi così ridicola. Un'altra volta era stata mandata a cambiarsi d'abito, per uno a suo parere molto meno bello, ma che si accordava di più ai gusti di Lady Kemnor. Queste erano piccole cose, ma erano recenti esempi di ciò che in altre forme ella aveva dovuto sopportare per molti anni, e il suo attaccamento a Mr. Gibson cresceva proporzionalmente alla consapevolezza delle miserie dalle quali sarebbe fuggita grazie a lui. Dopotutto, quell'intervallo di speranze e di rammendi, per quanto mescolato all'insegnamento, non era stato spiacevole. Il suo abito da sposa era cosa certa. Gliel'avrebbero procurato le sue vecchie allieve delle Torri, l'avrebbero vestita da capo a piedi nel lieto giorno. Lord Camnor, come è stato detto, le aveva regalato 100 sterline per il corredo e aveva lasciato carta bianca a Mr. Preston per la colazione nuziale nell'antica sala di Ashcombe Manor House. Lady Kemnor, un po' irritata per il fatto che il matrimonio non fosse stato rimandato fino alle vacanze natalizie dei nipoti, aveva tuttavia donato a Miss Kirkpatrick un eccellente orologio con catena di fattura inglese, più scomodo ma più utile del piccolo e elegante aggeggio straniero che era stato così a lungo appeso alla cintura della donna, inducendola così spesso in errore. I suoi preparativi erano dunque considerevolmente in anticipo, mentre Mr. Gibson non aveva ancora fatto nulla per sistemare o ridecorare la casa a beneficio della promessa sposa. Sapeva di dover far qualcosa, ma cosa? Da che parte doveva cominciare, visto che c'erano così tante cose in disordine e lui aveva così poco tempo per controllare? Alla fine, egli giunse alla saggia decisione di chiedere alle signorine Browning, in considerazione della loro lunga amicizia, il favore di accollarsi il fastidio di preparare tutto ciò che era immediatamente necessario in casa, e risolse di lasciare al gusto della futura moglie tutti gli interventi più spiccatamente ornamentali che intendeva operare. Ma prima di avanzare questa richiesta alle signorine Browning, doveva comunicare loro la notizia del suo fidanzamento, che fino ad allora era rimasta un segreto per i concittadini, i quali avevano attribuito le sue frequenti visite alle torri allo stato di salute della contessa. Egli sentiva che personalmente avrebbe riso sotto i baffi nel caso in cui un vedovo di mezza età si fosse presentato da lui con una confessione simile a quella che doveva fare alle signorine Browning, che l'idea di quel necessario colloquio lo disturbava. Ma s'aveva da fare, perciò una sera egli andò da loro senza cerimonie, come affermarono le signorine, e raccontò la sua storia. Alla fine del primo capitolo, ovvero alla fine del resoconto della cotta di Mr. Cox, Miss Browning alzò le mani in sorpresa. Pensare che Molly, che ha tenuto in braccio quando era in fasce, comincia ad avere degli innamorati. Beh, parola mia, sorella Febe, che stava entrando in collamento nella stanza. Senti che notizia. Molly Gibson ha un innamorato. Si può quasi dire che abbia ricevuto una proposta. Non è vero, Mr. Gibson? E ha solo 16 anni. 17, sorella, precisò Miss Febe, che si piccava di sapere tutto in merito agli affari domestici del caro Mr. Gibson. 17 lo scorso 22 di giugno. Beh, come ti pare? 17, se vuoi dire così, disse Miss Browning con impazienza. Il fatto non cambia. Ha un innamorato e mi sembra che fosse in fasce solo ieri. Di certo mi auguro che il corso del suo amore proceda placido, dichiarò Miss Febe. Allora Mr. Gibson le interruppe, perché la sua storia non era stata raccontata neanche a metà e lui non voleva che le due continuassero ancora a lungo con l'idea che Molly avesse una storia d'amore. Molly non ne sa niente, non l'ho detto a nessuno se non a voi due e a un altro amico. Ho sgridato per bene Cox e ho fatto del mio meglio per mantenerne i limiti il suo attaccamento, come lo definisce lui, ma ero fortemente perplesso su cosa fare con Molly. Misere era via e io non potevo lasciarli nella stessa casa senza la presenza di una donna più matura. «Oh, Mr. Gibson, perché non l'avete mandata da noi?» intervenne Miss Browning. «Avremmo fatto tutto quanto il nostro potere per voi, per amor vostro e della sua povera cara mamma». «Grazie, so che l'avreste fatto, ma non sarebbe stato opportuno che lei rimanesse a Hollingford nel periodo delle effervescenze di Cox. Adesso il ragazzo sta meglio. Il suo appetito è tornato, raddoppiato dopo i digiuni che aveva ritenuto giusto esibire. Ieri si è mangiato 3 porzioni di fagotto di ribes nero». «Di sicuro siete molto generoso, Mr. Gibson. 3 porzioni? E direi altrettanta carne?» «Oh, ne ho fatto cenno solo perché quando si tratta di questi giovanotti l'amore e l'appetito sono inversamente proporzionali. Ho pensato che la terza porzione fosse un buon segno. E tuttavia, vedete, ciò che è accaduto una volta può verificarsi di nuovo». «Non so. Febe ha ricevuto una proposta di matrimonio una volta», cominciò Miss Browning. «Shh, sorella! Parlarne potrebbe ferire i suoi sentimenti». «Sciocchezze, bambina. Sono passati 25 anni e la sua figlia più grande si è sposata a sua volta. Riconosco che non è stato fedele», lamentò Miss Febe con la sua voce morbida e flautata. «Gli uomini non sono tutti come voi, Mr. Gibson, devoti al ricordo del loro primo amore». Mr. Gibson trasalì. Jenny era stata il suo primo amore, ma il suo nome non era mai trapelato a Hollingford. Sua moglie, buona, graziosa, intelligente e amata come era stata, non era stato il suo secondo, no, e no, neanche il terzo. E ora lui doveva rivelare la notizia di un secondo matrimonio. Beh, disse, in ogni caso pensavo di dover fare qualcosa per proteggere Molly da queste faccende, finché è ancora così giovane e prima che io dessi il mio consenso. Il nipotino di Miss Eyre ha preso la scarlattina. Ah, tra l'altro, come sono stata sventata a non chiedere come sta il povero piccino? Peggio, meglio. Non ha importanza per ciò che ho da dire adesso. Il fatto che Miss Eyre per un po' di tempo non potrà rientrare a casa, io non posso lasciare Molly a Hamley per sempre. Ah, adesso capisco il motivo di quella visita improvvisa a Hamley. Parola mia, è quasi un romanzetto. Mi piace sentir parlare di storie d'amore, mormorò Miss Febe. Allora, se mi lasciate proseguire con il mio racconto, sentirete parlare della mia, ribatté Mr. Gibson, che aveva quasi perso la pazienza per tutte quelle continue interruzioni. «La vostra!» fece Miss Febe debolmente. «Che Dio ci benedica e ci salvi!» esclamò Miss Browning con tono meno sentimentale. «E adesso cosa succederà?» «Le mie nozze, spero!» rispose Mr. Gibson, scegliendo di interpretare alla lettera quell'espressione di intensa sorpresa. «Ed è questo ciò di cui sono venuta a parlarvi!» Un barlume di speranza brillò nel petto di Miss Febe. Aveva ripetuto spesso alla sorella, nella confidenza dell'arricciamento dei capelli, a quei tempi le donne si facevano i riccioli, che l'unico uomo che avrebbe mai potuto indurla a pensare al matrimonio era Mr. Gibson, che se mai egli gliel'avesse proposto, lei si sarebbe sentita il dovere di accettare il ricordo della povera cara Mary. Non spiegò mai quale preciso tipo di soddisfazione egli immaginava di poter dare alla povera cara amica morta sposando quello che era stato suo marito. Febe giocava nervosamente con i lacci del grembiule di seta nera, Come il califo in quel racconto d'Oriente, un'intera vita di possibilità le attraversò la mente in un solo attimo, e di queste possibilità la domanda delle domande era: poteva lasciare la sorella? Febe, fai attenzione al momento presente e ascolta ciò che viene detto prima di tormentarti con un problema che potrebbe non realizzarsi mai. Naturalmente per me è stato motivo di preoccupazione scegliere chi sarebbe stata la padrona della mia casa, la madre di mia figlia, ma alla fine penso di aver preso la decisione giusta. La signora che ho eletto ha... Diteci subito chi è, buon uomo, disse schietta Miss Browning. Mrs. Kirkpatrick, rivelò il promesso sposo. Cosa? L'istitutrice delle torri cui la contessa dà tanto valore? Sì, la famiglia la stima molto e meritatamente. Ora gestisce una scuola ad Ashcombe ed è esperta nel governo di una casa. Ha cresciuto le giovani signore delle torri e anche lei una figlia. Perciò è probabile che nutrirà sentimenti gentili e materni nei confronti di Molly. È una donna dall'aspetto molto elegante, osservò Miss Febe, sentendosi in dovere di dire qualcosa di elogiativo per nascondere i pensieri che le erano passati per la mente. L'ho vista nella carrozza che tornava indietro con la contessa. Una donna davvero bella, devo dire. Sciocchezze, sorella, disse Miss Browning. Cosa c'entrano la sua eleganza e la sua bellezza con la questione? Hai mai sentito di un vedovo che si risposasse per motivi così frivoli? Dipende sempre da un certo senso del dovere, non è vero, Mr. Gibson? Hanno bisogno di una donna che governi la loro casa, o di una madre per i loro figli, oppure pensano che la loro moglie defunta lo apprezzerebbe. Forse nella mente della sorella maggiore era balenata l'idea che Febe potesse essere la prescelta, perché il suo tono tradiva un'acuta acrimonia, che non era sconosciuta a Mr. Gibson, il quale però aveva deciso di non preoccuparsene in quel preciso momento. «Fate quello che volete, Miss Browning. Decidete per me le mie ragioni. Non pretendo di essere stato del tutto esauriente a questo proposito, ma sono chiaro nell'augurarmi di poter mantenere le mie vecchie amicizie e che le mie amiche vogliano bene la mia futura moglie per amor mio. Non conosco due donne in tutto il mondo, dopo Molly e Miss Kirkpatrick, per le quali io nutra più rispetto che per voi. Inoltre, voglio chiedervi se accettereste di tenere Molly qui con voi fin dopo le mie nozze. Avreste potuto chiedercelo prima che a Madame Hamley, puntualizzò Miss Browning, addolcita solo per metà. Noi siamo vostre vecchie amiche e siamo state anche amiche di sua madre, anche se non apparteniamo alla nobiltà. Questo è ingiusto, replicò Mr. Gibson, e lo sapete. Non lo so. State sempre con Lord Hollingford quando ci riuscite, più di quanto stiate con Mr. Goodenough o Mr. Smith, e continuate ad andare a Hamley. Miss Browning non era tipo da arrendersi subito. Cerco la compagnia di Lord Hollingford, come cercherei quella di un uomo simile a lui, indipendentemente dal suo rango o della sua posizione. Maestro di scuola, falegname, ciabattino, se fosse possibile che costoro avessero una mente come la sua e sviluppata grazie a vantaggi simili ai suoi. Mr. Goodenough è un avvocato molto intelligente, con forti interessi locali e neanche un pensiero che vada oltre a quelli. Beh, non continuiamo a discutere. Mi fa sempre venire il mal di testa, come Febe sa. Non intendevo ciò che ho detto, va bene così? Ritratterò qualunque cosa prima che se ne possa parlare. Dove eravamo prima che iniziaste le vostre argomentazioni? Sul fatto che la cara piccola Molly venga a farci visita, rispose Miss Febe. Avrei dovuto chiedervelo prima. Solo che Cox era così fervente nel suo amore, non sapevo cosa potesse fare o quanto sarebbe potuto diventare importuno sia per Molly che per voi. Ora però si è raffreddato. L'assenza ha avuto un effetto decisamente sedativo e penso che Molly possa star nella stessa città con lui senza conseguenze, a parte qualche sospiro ogni volta che lei gli tornerà in mente dopo che si saranno incontrati. E ho un altro favore da chiedervi. Perciò, vedete, se non mi converrebbe proprio litigare con voi, Miss Browning, dato che sono un umile supplice. Bisogna fare degli interventi in casa per renderla accogliente per la futura Mrs. Gibson. Ha un disperato bisogno di essere ritinteggiata e ritappezzata, e forse anche di qualche mobile nuovo, ma di sicuro non so quale. Sareste così gentili da venire a vedere il posto e capire cosa si può fare con un centinaio di sterline? Le pareti della sala da pranzo devono essere ridipinte. La carta da parati lascerò al suo gusto e ho un gruzzoletto da parte che lei potrà spendere per quella stanza. Ma per il resto della casa lascio fare a voi se sarete così gentile da aiutare un vecchio amico. Questo era esattamente il tipo di commissione che poteva gratificare l'amore per il potere di Miss Browning. Avere del denaro a disposizione implicava selezionare i commercianti, un talento che lei aveva avuto modo di esercitare quando il padre era in vita, ma che dopo la sua morte aveva avuto ben poche possibilità di esibire. Il suo usuale buon umore ritornò grazie a questa prova di fiducia nel suo gusto e nella sua lungimiranza, mentre l'immaginazione di Miss Febe indulgeva piuttosto sul piacere di una visita di Molly.